Middlemarch di George Eliot, Burrizzoli Edizione. Uno studio di vita provinciale. Preludio. Quanti di coloro a cui preme molto conoscere la storia dell'uomo e in qual modo questo misterioso impasto si comporta nei mutevoli esperimenti del tempo non si sono soffermati anche se per poco sulla vita di Santa Teresa e non hanno sorriso con una certa tenerezza al pensiero della fanciullina che un mattino uscì di casa, la mano nella mano del fratello ancora più piccolo per andare a cercare il martirio nel paese dei Mori? Dalla scabra Avila uscirono sgambettando, con gli occhi spalancati e l'aspetto inerme di due cerbiatti, ma con un cuore di uomini già palpitante di un'idea nazionale. Finché non si imbatterono nella realtà domestica, impersonata dagli zii, che li fece desistere dal loro grandioso progetto. Quel pellegrinaggio infantile fu un giusto inizio. Il carattere appassionato e idealistico di Teresa esigeva una vita epica. Cos'erano per lei i voluminosi romanzi cavallereschi e le vittorie sociali di una ragazza brillante? La sua fiamma divorò rapida quella leggera esca e, alimentata dall'interno, si levò alla ricerca di una qualche soddisfazione senza limiti, un qualche oggetto che non avrebbe mai scusato un attimo di debolezza, che avrebbe conciliato l'abbattimento con l'estatica consapevolezza che c'è una vita oltre l'individuo. Essa trovò la propria epopea nella riforma di un ordine religioso. Questa donna spagnola, che visse 300 anni fa, non fu certo l'ultima del suo genere. Da allora sono nate molte Terese, che non hanno trovato per sé alcuna esistenza epica in cui si rivelasse costantemente un'attività clamorosa. Forse solo un'esistenza di errori, la conseguenza di una certa grandezza spirituale che mal si accordava con la meschinità delle occasioni. Forse un tragico fallimento che non trovò alcun vate e cadde lacrimato nell'oblio. Con vaghi disegni e in una situazione ingarbugliata, tentarono di forgiare pensiero e azione in nobile armonia. Ma alla fine la loro lotta parve agli occhi della gente comune pura contraddizione e confusione. Perché queste Terese, nate in seguito, non furono aiutate da una fede e da un ordine sociale coerenti che potessero svolgere una funzione di conoscenza per l'anima bramosa. Il loro ardore oscillò fra un ideale vago e l'anelito comune a tutte le donne, talché il primo fu disapprovato come stravaganza e il secondo bollato come uno sbandamento. Taluni hanno pensato che la confusione di queste esistenze sia da attribuire alla scomoda indeterminatezza con cui le potenze superiori hanno modellato la natura delle donne. Se ci fosse un solo grado di incompetenza femminile, rigido come la capacità di contare fino a tre e basta, il destino delle donne nella società potrebbe essere trattato con certezza scientifica. Frattanto, l'indeterminatezza resta e i limiti di variazione sono in realtà assai più ampi di quanto si potrebbe dedurre dall'uniformità delle acconciature femminili e delle storie d'amore in poesia e in prosa che vanno per la maggiore. Qua e là, nello stagno marrone fra gli anatroccoli, viene allevato con imbarazzo un piccolo cigno, che non trova mai il vivo flusso in armonia con la sua specie dalle zampe foggiate a mo' di remi. Qua e là nasce una Santa Teresa, fondatrice di nulla, i cui palpiti e singhiozzi traboccanti d'amore per un bene inattinto si spingono trepidi e si disperdono fra ostacoli invece di appuntarsi su qualche azione memorabile. Libro 1. Miss Brooke. Capitolo 1. Miss Brooke era dotata di quel genere di avvenenza che pare essere messo in risalto da un vestire dimesso. Mano e polso erano di così elegante raffattezza che essa poteva portare maniche spoglie di stile quanto quelle con cui la Beata Vergine apparve ai pittori italiani. Il suo profilo, non meno della statura e del portamento, pareva acquisire ancora maggiore dignità dai suoi abiti modesti, che accanto alla moda di provincia le conferiva la solennità di una bella citazione della Bibbia o di qualcuno dei nostri più antichi poeti, inserita in un trafiletto di un giornale d'oggi. Di solito di lei si diceva che fosse di un'intelligenza fuori del comune, ma con la postilla che sua sorella Celia aveva più buon senso. Eppure ceglia non portava più fronzoli di lei e solo agli occhi di un osservatore attento i suoi abiti differivano da quelli della sorella e rivelavano un pizzico di civetteria nella fattura, che la semplicità di vestire di Miss Brooke era dovuta a motivi svariati, per la maggior parte condivisi dalla sorella. L'orgoglio di essere delle signore di rango le aveva una certa parte. I parenti dei Brooke, anche se proprio non esattamente aristocratici, erano indiscutibilmente gente per bene. A indagare su un paio di generazioni passate, non si sarebbe trovato nessun antenato agrimensore o spedizioniere, nulla di inferiore a un ammiraglio o a un prelato, e si poteva addirittura risalire a un avo gentiluomo puritano che aveva militato sotto Cromwell, ma in seguito si era sottomesso al nuovo regime ed era riuscito a uscirne da tutti gli impicci della politica come proprietario di una rispettabile tenuta familiare. Era naturale che fanciulle di simili natali, residenti in una tranquilla casa di campagna e frequentatrici di una chiesa di villaggio non più ampia di un salotto, considerassero i fronzoli un'ambizione da figlia di bottegaio. Poi c'era un'educazione all'economia, che a quei tempi metteva l'ostentazione del vestiario tra le prime voci da decurtare, allorché era necessario un qualsiasi margine per spese che dessero maggior lustro al rango sociale. Tali motivi sarebbero stati sufficienti a giustificare il vestire dimesso, a prescindere completamente dal sentimento religioso. Ma nel caso di Miss Brooke, la religione da sola ne sarebbe stata l'occasione, e Celia acconsentiva con spirito mite a tutte le idee della sorella, limitandosi a infondere in esse quel buon senso che giunge ad accettare dottrine di grande peso senza alcun turbamento eccessivo. Dorotea sapeva a memoria molti passi dei pensieri di Pascal e di Jeremy Taylor, e a suo parere i destini dell'umanità alla luce del cristianesimo facevano apparire le smanie della moda femminile un'occupazione da manicomio. Essa non riusciva a far conciliare le inquietudini di una vita spirituale che comportava conseguenze per l'eternità con un vivo interesse per passamanerie artificiali, prominenze di drappeggi. La sua mente era speculativa e per propria natura anelava a una qualche elevata concezione del mondo, in cui francamente fosse inclusa la parrocchia di Dipton e la regola di condotta che essa là vi seguiva. Amava l'intensità e la grandezza e si precipitava con sconsideratezza ad abbracciare qualsiasi cosa le sembrasse dotata di quelle qualità. Probabilmente avrebbe cercato il martirio, avrebbe abiurato e poi avrebbe finito per divenire una martire laddove non ne aveva intenzione. Certo è che tali tratti nel carattere di una ragazza da marito tendevano a ostacolarne il destino e a impedire che questo venisse deciso in base al costume, alla bellezza, alla vanità e un attaccamento simile a quello del cane per il suo padrone. Detto questo, lei, la maggiore delle sorelle, non aveva ancora compiuto 20 anni ed entrambe, fin dall'età di 12 anni circa, quando avevano perso i genitori, erano state allevate seguendo un progetto a un tempo ottuso e confuso, dapprima presso una famiglia inglese e in seguito presso una famiglia svizzera, a Losanna. In tal modo, il loro tutore, uno zio scapolo, aveva cercato di compensare gli svantaggi della loro condizione di orfane. Non era ancora trascorso un anno da quando erano venute ad abitare a Tipton Grange con lo zio, un uomo di quasi 60 anni, di temperamento remissivo, di idee eclettiche e dalle opinioni politiche incerte. In gioventù aveva viaggiato e in questa parte della contea si sosteneva che avesse assunto un abito mentale troppo incoerente. Le conclusioni di Mr. Brooke, come il tempo, erano difficili da prevedere. Si poteva solo essere certi che egli avrebbe agito spinto da intenzioni benevole e che avrebbe speso il meno possibile per realizzarle. Si sa che le menti più scivolosamente indefinite ritengono qualche grano duro di abitudine e si è visto qualcuno incurante di tutti i propri interessi, tranne la conservazione della tabaccheria, per la quale era circospetto, sospettoso e di mano avara. La vena ereditaria di energia puritana in Mr. Brooke era chiaramente lettera morta, ma nella nipote Dorotea brillava ugualmente nei difetti e nelle virtù, divenendo talvolta in sofferenza per le chiacchiere dello zio o per il suo modo di lasciar correre nelle sue terre, e facendole agognare ancora di più il momento in cui sarebbe divenuta maggiorenne e sarebbe stata padrona di una certa somma per i suoi progetti generosi. Era considerata un'ereditiera, perché non solo i genitori avevano lasciato alle due sorelle 700 sterline annue a testa, ma se Dorotea si fosse sposata e avesse avuto un figlio maschio, questi avrebbe ereditato le terre di Mr. Brooke, del valore presumibile di circa 3.000 sterline annue. Un reddito che sembrava una vera ricchezza alle famiglie della provincia. Tuttora intenta discutere della recente condotta di Mr. Peel in merito alla questione cattolica, ignare di futuri campi auriferi e di quella sfarzosa plutocrazia che ha così nobilmente magnificato le necessità della vita raffinata. E perché non avrebbe potuto sposarsi Dorotea, una ragazza così bella e con tali prospettive? Nulla poteva impedirlo, tranne il suo amore degli estremi e l'insistenza con cui voleva regolare la vita in base a delle idee che avrebbero potuto far esitare un uomo cauto prima di proporle un'offerta, o addirittura avrebbero potuto indurre, alla fin fine, lei stessa a rifiutare ogni proposta. Una signorina di buona famiglia e benestante che d'improvviso cadeva in ginocchio su un pavimento di mattoni, accanto a un contadino malato e pregava con fervore come se credesse di vivere al tempo degli apostoli, che veniva presa dagli strani ghiribizi di digiunare come un cattolico e di restare alzata la notte a leggere vecchi libri di teologia. Una moglie simile vi avrebbe potuto destare un bel mattino con un nuovo piano per l'investimento delle sue entrate, che avrebbe intralciato all'economia domestica il mantenimento dei cavalli da sella. Un uomo ci avrebbe naturalmente pensato due volte, prima di rischiare di prendersi una tale compagna. Si esigeva che le donne avessero delle opinioni poco salde, ma il grande baluardo della società e della vita domestica era che non si agiva in base a quelle opinioni. La gente sana di mente si comportava allo stesso modo dei propri simili, cosicché se qualche pazzo era in libertà si poteva riconoscerlo e starne alla larga. Le simpatie del paese in merito alle signorine giunte di recente anche fra i contadini andavano in generale a Celia, così amabile e dall'aspetto innocente, mentre i grandi occhi di Miss Brooke parevano troppo insoliti e sconcertanti, come la sua religione. Povera Dorotea. A paragone di lei, Celia, la ragazzina dall'aspetto innocente, era astuta ed esperta. Tanto più scaltra è una mente umana rispetto all'involucro esterno che per essa è una specie di blasone o quadrante. Pure coloro che avvicinavano Dorotea, per quanto prevenuti nei suoi confronti da questa allarmante diceria, la trovavano dotata di un fascino inspiegabilmente in armonia con quella. La maggior parte degli uomini la giudicava ammagliante quando andava a cavallo. Essa amava l'aria fresca e la campagna nei suoi vari aspetti, e quando gli occhi e le guance erano incorporati da un confuso piacere, aveva assai poco l'aspetto di una beghina. L'equitazione era uno svago che si concedeva nonostante gli scrupoli di coscienza. Aveva l'impressione di goderne in modo sensuale e pagano e si riprometteva sempre di rinunciarvi. Era franca, ardente e per nulla vanitosa. Al contrario, era piacevole osservare come nell'immaginazione abbellisse la sorella Celia di attrattive del tutto superiori alle proprie. E se un qualsiasi gentiluomo sembrava venire alla grange spinto da un qualche motivo che non fosse di vedere Mr. Brooke, essa concludeva che doveva essere innamorato di Celia. Sir James Chatham, per esempio, che essa aveva di continuo in mente con riferimento a Celia, in dubbio fra sé e sé se la sorella avrebbe fatto bene ad accettarlo. Ridicola sconvenienza, le sarebbe sembrato considerarlo un proprio corteggiatore. Dorotea, nonostante tutta la sua brama di conoscere la verità della vita, conservava delle idee assai infantili sul matrimonio. Aveva la certezza che avrebbe accettato il saggio Hooker se fosse nata in tempo per salvarlo dal disgraziato matrimonio che contrasse, oppure John Milton, quando fu colto dalla cecità, oppure uno qualsiasi degli altri grandi uomini di cui sarebbe stata fulgida devozione sopportare le strane abitudini. Ma un bel baronetto simpatico, che diceva esatto alle sue osservazioni, anche quando le esprimeva incertezza. In che modo avrebbe potuto affascinarla come innamorato? Il vero incantevole matrimonio doveva essere quello in cui il marito era una sorta di padre e avrebbe potuto insegnare alla moglie persino l'ebraico, se lei avesse voluto. Questi tratti particolari del carattere di Dorotea indussero le famiglie del vicinato a biasimare ancora di più Mr. Brooke, per non aver dato alle nipoti come guida e compagna una qualche signora di mezza età. Ma egli stesso aveva un tal timore del genere di donna dominatrice che con ogni probabilità si sarebbe potuta trovare per una simile mansione, che si lasciò dissuadere dalle obiezioni di Dorotea e in questo frangente fu abbastanza coraggioso da sfidare il mondo. vale a dire Mrs. Cadwallader, la moglie del pastore, e il piccolo gruppo di nobilotti che visitavano il nord-est dell'Homeshire. Cosicché Miss Brooke prese le redini dell'andamento della casa dello zio e la sua nuova autorità, con gli omaggi che con questa facevano tutt'uno, non le dispiacque per nulla. Oggi Sir James Chatham doveva pranzare alla Grange insieme a un altro gentiluomo che le ragazze non avevano mai visto e per il quale Dorothea provava un senso di attesa misto a venerazione. Costui era il reverendo Edward Casaubon, noto nella contea come uomo di profondo sapere, del quale da molti anni si sapeva che era impegnato in una grande opera sulla storia della religione. Era conosciuto anche come uomo di mezzi sufficienti a dar lustro alla sua religiosità e di idee personali che si sarebbero potute appurare con maggiore chiarezza una volta pubblicato il libro. Il suo stesso nome era di un'imponenza che non si poteva misurare senza un'esatta valutazione dei progressi avvenuti in quel campo dell'erudizione. Di buon'ora Dorothea era tornata dall'asilo infantile che aveva aperto nel paese ed era al posto consueto nel grazioso salottino che divideva le stanze da letto delle sorelle, intenta a finire il progetto di alcune costruzioni, un genere di lavoro che le dava una grande soddisfazione. Allorché Celia, che la stava osservando col desiderio trepido di proporle una certa cosa, disse: «Cara Dorothea, se non ti spiace, se non sei molto occupata, pensi che oggi potremo guardare i gioielli della mamma e dividerceli? Oggi fanno esattamente 6 mesi da quando lo zio te li ha dati e tu non li hai ancora guardati». Sul volto di Celia vi era l'ombra di un'espressione imbronciata, perché la presenza dichiarata del broncio era soffocata da un senso abituale di soggezione verso Dorothea e per principio. Due elementi associati che avrebbero potuto mostrare una misteriosa elettricità, se li si toccava incautamente. Con suo sollievo, quando Dorothea alzò gli occhi, questi erano pieni di riso. «Che stupendo piccolo almanacco sei, Celia! Sono 6 mesi solari o lunari?» «Oggi è l'ultimo giorno di settembre e quando lo zio te li ha consegnati era il 1° di aprile. Disse, ricordi, che se n'era dimenticato fino ad allora. Credo che tu non ci abbia più pensato dopo averli chiusi in questo stipo. Beh, cara, noi non dovremmo mai portarli, lo sai». Dorothea parlò con un tono assai cordiale, a metà fra il carezzevole e l'esplicativo. Teneva la matita in mano e stava disegnando delle piccole piante laterali sul margine. Celia arrossì e assunse uno sguardo assai serio. «Cara, io penso che manchiamo di rispetto alla memoria della mamma a tenerli sotto chiave e ignorarli». E poi, aggiunse dopo una breve esitazione con un crescente singhiozzo di mortificazione, «le collane sono assai comuni oggigiorno. E Madame Poincon, che per certe cose era più rigida persino di te, era solita portare ornamenti addosso. E i cristiani in generale, senz'altro adesso ci sono in paradiso delle donne che hanno portato dei gioielli». Celia era consapevole di una certa forza intellettuale quando si metteva a discutere seriamente. «Ti piacerebbe portarli?» esclamò Dorothea, mentre un'aria di sbalordita scoperta animava tutta la sua persona di un movimento drammatico che essa aveva copiato proprio da quella Madame Poincon che portava ornamenti addosso. «Allora, naturalmente, tiriamoli fuori. Perché non me l'hai detto prima? Ma le chiavi? Le chiavi?» Si premette le mani contro le tempie e parve disperare della propria memoria. «Sono qui», disse Celia, che da tempo aveva meditato e preparato questa spiegazione. «Per favore, apri il cassetto grande dello stipo e tira fuori la scatola dei gioielli». Lo scrigno si trovò ben presto aperto davanti a loro e i vari gioielli furono sparsi sul tavolo, dove formavano un luminoso parterre. Non era una grossa collezione, ma alcuni pezzi erano davvero di notevole bellezza. Quelli ovviamente più belli a prima vista erano una collana di ametiste purpuree incastonate in un lavoro di oreficeria di squisita fattura e una croce di madreperla con 5 brillanti. Dorothea raccolse immediatamente la collana e l'agganciò attorno al collo della sorella, a cui aderiva quasi come un braccialetto. Ma quel cerchio ben si adattava allo stile Rietta Maria della testa e del collo di Celia. E questa se ne rese conto guardandosi nella specchiera di fronte. «Ecco fatto, Celia. Questa puoi portarla con la tua mussolina indiana, ma questa croce devi portarla con i vestiti scuri». Celia tentava di non sorridere dal gran piacere. «Oh, Dodo! La croce devi tenerla tu?» «No, no, cara, no», fece fece Dorotea, levando le mani in un gesto di noncurante disapprovazione. Ma sì, davvero, devi. Ti starebbe bene col tuo vestito nero adesso, insistette Celia. Potresti portare quella. Per nulla al mondo, per nulla al mondo. Una croce è l'ultima cosa che porterei come gingillo. Dorotea fu percorsa da un leggero brivido. Allora penserai che faccio male io a portarla, disse Celia, imbarazzata. No, cara, no, disse Dorotea, accarezzando la sorella sulla guancia. Anche le anime hanno un volto. Ciò che sta bene a una non sta bene a un'altra. Ma forse ti piacerebbe tenerla per amore della mamma? No, ho altre cose della mamma. Il suo scrigno di legno di sandalo, che mi preme tanto. Un sacco di cose. Insomma, sono tutte tue, cara. Non c'è bisogno che ne discutiamo oltre. Ecco, porta via la roba di tua proprietà. Celia si sentì un po' ferita. In questa tolleranza puritana vi era una forte presunzione di superiorità, non meno irritante per la bionda carne di una sorella poco zelante di una persecuzione puritana. Ma come posso portare dei gioielli se tu, che sei la maggiore, non ne porterai mai? Andiamo, Celia, adesso chiedi troppo. Che io porti dei ninnoli per sostenerti con la mia approvazione? Se mai dovessi mettermi una collana come quella, mi sentirei come se avessi fatto le piroette. La terra mi girerebbe attorno e io non saprei come fare a camminare. Celia si era sganciata la collana e se l'era tolta. Sarebbe un po' stretta per il tuo collo. Qualcosa che cada e che penda ti starebbe meglio, disse con una certa soddisfazione. Il fatto che la collana non si adattasse assolutamente a Dorotea, da nessun punto di vista, rese Celia più felice nel prenderla. Stava aprendo degli astucci portanello che rivelarono alla vista un bello smeraldo con diamanti. E proprio allora il sole, uscendo da dietro una nube, si posò sul tavolo con un raggio luminoso. Come sono stupende queste gemme, disse Dorotea, presa da un sentimento del tutto nuovo, improvviso come il raggio di sole. Strano, con quale profondità i colori sembrano penetrare in noi, come il profumo. Suppongo che sia per questo motivo che le gemme sono usate come emblemi spirituali nell'Apocalisse di San Giovanni. Sembrano frammenti di paradiso. Penso che lo smeraldo sia il più bello di tutti. E c'è un braccialetto che si accompagna adesso, disse Celia. Prima non l'abbiamo notato. Sono stupendi, disse Dorotea, facendo scivolare anello e braccialetto al dito e al polso ben torniti, e alzandoli poi verso la finestra all'altezza dei propri occhi. Nel frattempo, il suo pensiero cercava di giustificare il piacere datole dai colori, immergendoli nella sua gioia religiosa e mistica. Quelli ti piacerebbero, Dorotea, disse Celia piuttosto titubante, cominciando a pensare con stupore che la sorella mostrava una qualche debolezza e anche che gli smeraldi si adattavano alla sua figura persino di più delle ametiste purpure. Se proprio non vuoi altro, devi tenere quell'anello e quel braccialetto. Ma guarda, queste agate sono assai belle e sobrie. Sì, terrò questi, l'anello e il braccialetto, fece Dorotea. Poi, lasciata cadere la mano sul tavolo, disse con un tono diverso: Eppure che gente miserabile trova tali cose e le lavora e le vende. Tacque nuovamente e Celia pensò che la sorella avesse deciso di rinunciare ai gioielli, come avrebbe dovuto fare per essere coerente. Sì, cara, terrò questi, disse Dorotea con accento deciso, ma tu tieniti tutto il resto e lo scrigno. Raccolse la matita, senza spostare i gioielli, e guardandoli ancora, pensava di tenerli spesso vicini per abbeverare l'occhio a queste fonti di puro colore. Li porterai in società? Chiese Celia, che l'osservava sinceramente curiosa di sapere ciò che la sorella avrebbe fatto. Dorotea rivolse un rapido sguardo alla sorella. Tutti gli ornamenti immaginari con cui essa abbelliva le persone care, di quando in quando erano attraversati da un sagace acume, non privo di causticità. Se Miss Brooke avesse attinto un giorno alla perfetta mansuetudine, ciò non sarebbe avvenuto per mancanza di fuoco interiore. Forse, disse in tono piuttosto altezzoso, non so proprio a che livello potrò scendere. Celia arrossì e si sentì infelice. Si accorse di aver offeso la sorella e non osava dire neppure alcunché di carino sul dono dei gioielli, che rimise nello scrigno e portò via. Anche Dorotea era infelice, mentre proseguiva a disegnare i suoi progetti. Metteva in dubbio la sincerità dei propri sentimenti e delle proprie parole nella scena che era terminata con quella piccola esplosione verbale. La coscienza disse a Celia che non aveva avuto per nulla torto Era assolutamente naturale e giustificabile che le avesse posto quella domanda e si ripeté che Dorotea era incoerente o avrebbe dovuto prendersi tutta la sua parte di gioielli oppure, dopo ciò che aveva detto, avrebbe dovuto rinunciare a tutti. Io sono certa, perlomeno credo, pensò Celia, che portare una collana non mi impedirà di pregare e non vedo perché dovrei essere vincolata dalle idee di Dorotea. Ora che stiamo per entrare in società, anche se naturalmente le dovrebbe esserne vincolata. Ma Dorotea non è sempre coerente. Così, pensava Celia, piegandosi muta sul suo ricamo finché non udì la sorella chiamarla. Ehi Kitty, vieni a vedere il mio progetto. Mi crederò un grande architetto se non ho messo scale e caminetti in posizioni incompatibili. Mentre Celia si piegava sulla carta, Dorotea appoggiò dolcemente la guancia al braccio della sorella. Celia capì il significato di questo gesto. Dorotea capiva di aver avuto torto e Celia la perdonò. Risalendo nel tempo con la memoria, c'era sempre stato un misto di critica e di soggezione nell'atteggiamento mentale di Celia verso la sorella maggiore. La minore aveva sempre portato il gioco. Ma esiste una creatura giocata, priva di opinioni personali?